Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 9. Hear no evil, speak no evil. Dopo il secondo avvento, il mondo nel quale è iniziata questa storia si era capovolto. La scomparsa, o per meglio dire, l'annientamento dell'avidità, aveva lasciato libero un fiume di ricchezza che veniva spontaneamente diviso e ridistribuito. L'imperativo di amare era divenuto più forte dell'istinto di accaparrare. Ci furono in effetti dei problemi con quelli che, non avendo subito l'effetto God, non avevano la minima intenzione di condividere alcunché con chi che sia. Alcuni grandi industriali in viaggio d'affari all'estero fecero rientro in un paese impazzito. Amministratori delegati che avevano rinunciato a stipendi da favola per devolverne la maggior parte in beneficenza, la loro casa piena di sconosciuti che venivano accolti con premura dalla loro famiglia, il garage svuotato, avevano trovato una gigantesca orgia di collettivismo bolscevico. La Chiesa e le gerarchie ecclesiastiche per la maggior parte non furono colpite dal Devil. Il pontefice era in viaggio all'estero quando gli riferirono di quanto succedeva in Italia. Una strana ansia correva lungo i corridoi del Vaticano, la sensazione che se lui fosse tornato, forse non sarebbe stato tanto contento di ciò che avrebbe trovato dentro le mura. Alcuni giorni dopo l'evento, una volta ricostituita una parvenza d'ordine, le autorità rimaste indenni riguardarono rassegnate più volte la registrazione del concerto. C'era stato uno strano momento durante il quale all'improvviso il pubblico si era ammutolito. Era successo quando il cantante di uno dei gruppi della serata aveva pronunciato le parole «Io sono qui per voi». La piazza si era improvvisamente azzittita. Le registrazioni mostravano migliaia di persone in completo silenzio. Poi quello che sembrava uno dei tanti sciagurati con cui avevano a che fare ogni giorno aveva detto «amatevi». Quindi aveva mimato qualcosa di buffo e fatto partire la registrazione di una vecchia canzone dei Beatles e la gente aveva ricominciato a ballare. Niente di particolarmente strano, specialmente per un concerto rock. Le solite frasi da improbabili messia che molti musicisti parevano divertirsi ad impersonare. Niente di evidente, niente di concreto. Non avevano in mano niente di tangibile. Si era pensato ad un attacco chimico terrorista, all'avvelenamento delle falde acquifere, ma niente poteva spiegare l'estensione e la portata del fenomeno. La CNN aveva dato notizia di un'inspiegabile sindrome di massa in Italia. Con accenti folcloristici, i reporter avevano dipinto un paese pervaso da un'estasi mistica. Già arrivavano da tutto il mondo inviati straordinari per monitorare quella storia incredibile. Diossido si aggirava per le vie con il dispositivo anti-devil ben stretto in mano. «Ci tengo il tuo cervello», gli aveva detto Mirko spiegandogli come usarlo. Il disorientamento nelle strade era totale. Da un rapido calcolo a occhio, Camillo stimò che più della metà della popolazione fosse stata colpita. L'idea di quel bastardo era stata al solito semplice e geniale. Un veloce collegamento con il concerto del 1° maggio veniva sempre trasmesso anche nei telegiornali all'ora di cena. Così aveva colpito non solo gli ascoltatori interessati a quella serata, ma anche tutti quelli che all'ora di cena guardavano il telegiornale, ed erano davvero tanti. Senza contare gli ascoltatori radiofonici, gli avventori dei bar e tutti coloro che per un motivo o per l'altro, pur non essendo spettatori diretti, ne erano comunque rimasti coinvolti in qualche modo. Non pensava che sarebbe successo così tanto in così poco tempo. Sarebbe bastato un altro passettino per finire il lavoro e lui non poteva fare niente, tranne pensare a come fermare quella follia. Mirko saltellava su e giù dalle pietre miliari. Camminava lungo il bordo del marciapiede con le braccia aperte ad ala. La gente lo guardava. Tutti si prostravano. Solo qualcuno aveva il coraggio di sbirciarlo con la coda dell'occhio quando si allontanava. Lui si girava di scatto per sorprenderli, ridendo poi a crepapelle della loro reazione spaventata. Arrivò in una grande piazza. C'era una bella fontana ed era un giorno molto caldo. Pazienza se non era quella di Trevi. L'acqua era azzurra e pulita, troppo invitante. Mentre si dirigeva verso la fontana, le persone nella piazza si inginocchiavano vedendolo arrivare. Appoggiò una mano sul bordo di marmo e saltò nell'acqua che gli arrivava alle ginocchia. Urlò di sorpresa quando si accorse che anche sotto il sole caldo l'acqua era rimasta gelida. Poi vide che tutti avevano appoggiato la fronte a terra al suo grido. Poveracci, facevano quasi pena. «Ehi, non voglio mica farvi male!» Le fronti si alzarono di qualche millimetro. «Dai, perché questa paura? Vi sembro pericoloso?» disse indicandosi i vestiti fradici. «Perdonami, signore, perché ho peccato!» disse una voce confusa tra le teste chine. «Anch'io ho peccato!» replicò un'altra. Presto ci fu un coro di autoaccusazioni mormorate a testa bassa. «Ma sì, dai, cosa avrete mai fatto? Sentiamo, tu con la maglietta azzurra, vieni qui e raccontami. Dico a te, biondino, alza la testa!» Una chioma platinata si sentì obbligata a ubbidire. Il ragazzo cui apparteneva andò verso quella luce luminosa nella fontana che stava parlando proprio con lui. O forse era un roveto ardente. Teneva gli occhi bassi, non ne era sicuro. Si avvicinò alla luce e disse alcune frasi a bassa voce. Nessuno dei presenti doveva udire le parole, la vergogna era troppo pesante. Si preparò a ricevere la sua punizione. La folla prostrata udì il dio scoppiare a ridere. Poi disse qualcosa nell'orecchio del ragazzo e gli ordinò di andare in pace, continuando a ridacchiare. «Dai, dai, adesso vediamo...» Dalla postura di quei corpi spaventati, Mirko capiva che era più o meno afflitto da sensi di colpa. Rannicchiati su loro stessi, sarebbero implosi se avessero potuto, pur di non farsi vedere. «A chi tocca...» fece danzare l'indice sui deretani. «Tocca a...» si fermò su... «quel chiappone che cerca di nascondersi dietro la panchina!» La montagna di carne traballò un attimo, ma una volta erettasi e messasi in cammino, si diresse decisa verso quell'essere da cui emanava un alone che sembrava racchiudere in sé le stelle e l'universo. «Raccontami», gli disse prendendo forma umana. Assomigliava al personaggio di una riproduzione degli affreschi di Pompei che era appesa a casa sua. Capì che aveva assunto quella forma per metterlo a proprio agio. L'uomo mise le mani attorno alla bocca e iniziò a parlare. Parlò a lungo mentre la piazza taceva. Mentre raccontava, si asciugò diverse volte le labbra con un fazzolettino. Alla fine non aveva più saliva di una duna del Sahara, ma si rammentò del nome del personaggio del dipinto. Non aveva con sé quel buffo flauto, ma era certissimo che fosse proprio lui. Terminato il racconto, ci fu silenzio per un tempo che lo fece sudare non poco. Poi il dio Pan disse: «Oibò, davvero? Davvero si fanno queste cose? Questo non lo sapevo. Insomma, però non dovresti farlo più. Ma come cazzo vi viene in mente? Ma sì, vai, vai, vai anche tu che oggi mi sento buono». E gli diede un buffetto sulla guancia cadente. «Però non provarci più, coglione», pensò. Poi, stirandosi la schiena e allungando le braccia, guardò ancora le pecorelle smarrite. «Una», disse, «ancora una confessione, poi me ne vado. Chi vuole venire? Nessun volontario?» Solo una testa si mosse, esitante. Si guardò attorno di sottecchi come per accertarsi che nessuno dei presenti lo conoscesse. Poi, osservando il dio che con le dita gli faceva cenno di avvicinarsi, si alzò e lo raggiunse. Non riusciva a vedergli le gambe, erano immerse in una nuvola di fumo, ma quel viso triangolare, il corpo possente e soprattutto le corna bovine gli incutevano terrore. Solo dopo che la divinità disse «raggiungimi», gli fu possibile avanzare fino a lui. Non capiva perché tenesse un fagotto tra le braccia reggendolo come si regge un neonato. «Parla!» gli ordinò, e lui parlò. Mirko stava già pensando al gelato che si sarebbe mangiato di lì a poco, magari dopo essersi cambiato i vestiti fradici, quando qualcosa nel discorso dell'uomo lo riportò al presente. Gli chiese di ripetere, poi fissando l'uomo che a capochino parlava con voce rauca, non parlò più fino alla fine del discorso. Stringeva con le mani un tubo di metallo, le dita si serravano con maggior forza al procedere del racconto. Si sarebbe potuto temere che gli schizzassero le nocche fuori dalla pelle per quanto erano tese. L'uomo aveva appena terminato di raccontare una storia a cui Mirko faceva fatica a credere, quando si accorse con orrore che ne aveva già iniziata un'altra. «Stop!» urlò. L'uomo, colto di sorpresa, lo guardò negli occhi e subito si portò una mano davanti al volto per difendersi. «Questa è la cosa più maledettamente schifosa che ho mai sentito!» Il grido riecheggiò nella piazza. «Ho la nausea! Mi fai venire da vomitare, cazzo! Tu e quelli come te! Dovete morire, capito? Crepare!» L'uomo indietreggiò di scatto, inciampò e cadde all'indietro sbattendo la schiena sul selciato. Si rigirò aiutandosi con le mani, cercò di alzarsi e correre via. Non fece un altro passo che inciampò sui suoi stessi piedi e volò verso lo spigolo di una fioriera di cemento colpendola con una spalla. L'urto lo fece rimbalzare contro una bicicletta legata a un palo. Il braccio destro attraversò la ruota posteriore della bici. Purtroppo la mano non si infilò nei varchi tra i robusti raggi in acciaio, ma questi penetrarono fra le dita divaricate aprendo uno squarcio dolorosissimo nelle carni fra il medio e l'anulare. L'urlo che ne seguì si spense solo quando la bicicletta, piegandosi su se stessa sotto l'urto, si girò e il manubrio colpì con la leva del freno l'orbita sinistra dell'uomo, che emise un rantolo roco e dopo un breve guizzo tacque immobile. Drago scostò le pesanti tende rosso amaranto dalle finestre. La strada non era più piena di gente che ballava. Dopo un paio di giorni si erano calmati. Si sentiva bene, riposato. Quelle ore gli erano servite per ricaricarsi e rientrare in se stesso dopo l'esposizione Urbi e Torbi. Aveva per lo più dormito, ma la suite dell'hotel era dotata di una palestra fornita di numerose attrezzature. Ci aveva passato le ore di veglia provandone una dopo l'altra, tirando pugni sul sacco, correndo sul tapis roulant, sollevando manubri e bilancieri, arrampicandosi sulla fune e lasciandosi dondolare urlando come Tarzan. Aveva mangiato e ascoltato un sacco di musica. Ora era pronto per riprendere a lavorare. Si calzò in testa il cappellaccio a larghe tese e gli occhialoni scuri che aveva trovato curiosando nel guardaroba della suite, probabilmente avanzi di qualche personaggio dello spettacolo che li aveva dimenticati lì. Gli coprivano metà del viso. Si squadrò nello specchio e ghignò soddisfatto del camuffamento. Percorse il soffice tappeto color crema fino alle ampie porte dell'ascensore, che dopo pochi istanti si spalancarono, rivelando all'interno una coppia con due bambini. Gli adulti gli rivolsero un sorriso di saluto che lui contraccambiò. Nessuno diede segno di averlo riconosciuto. La bambina più piccola stava lottando con qualcosa nella propria narice destra. Poi alzò gli occhi curiosi verso di lui e rise alla smorfia buffa che lui le fece. Drago si stupì del calore di quella risata argentina. Aveva sempre detestato cordialmente i bambini, eppure l'allegria della piccola lo contagiò all'istante. Uscì nella hall. Il sole limpido faceva vibrare la luminosa aria romana. Si sentiva bene in incognito, come un apicoltore che esamina il suo alveare protetto dalla tuta. C'era una corta fila di persone che aspettavano il taxi. Si accodò volentieri osservando chi lo precedeva. Una coppietta di ragazzi, mano nella mano, carichi di zaini e valigie, La ragazza reggeva anche un trasportino in stoffa traforata, attraverso la quale intravedeva la sagoma appuntita di due orecchie triangolari. L'ombra si mosse verso di lui e ne uscì un miagolio tipicamente femminile che lo fece ridere ad alta voce. L'uomo biondo, con una 24 ore in mano al primo posto della fila, si voltò e con un sorriso e un gesto della mano fece passare avanti due ragazzi. Disse alcune parole al felino in una lingua strana piena di K e di S e concluse con un inequivocabile miau. Poi si aggiustò il nodo della cravatta e riprese impassibile la lettura del giornale pieno di grafici e tabelle. «Chissà se sono stato io», pensò Drago. «Non mi sembrava il tipo». Arrivarono insieme tre taxi. Si infilò nell'ultimo, tenendo fermo con una mano il cappellone troppo largo per l'abitacolo. «Buongiorno, dottor. Allora, dove la porto?» Gli occhi del conducente lo fissavano sardonici dallo specchietto retrovisore. «Non sono dottore, al massimo veterinario. Andiamo verso la Flaminia, le dirò io quando fermarsi». Il tono di voce di quel passeggero era strano. Non corrispondeva all'immagine non lusinghiera che se ne ricavava a prima vista. Sembrava qualcuno abituato a comandare. Forse aveva fatto male a non mostrare più rispetto. In fondo pagava lui. «Certo, signore. Peccato che quest'ora ci sia un sacco di traffico. Ne vuole approfittare per fare un percorso un po' più lungo, ma che le fa vedere le bellezze di Roma? Non gliele metto a molto, è stata una giornata un po' morta». «No, grazie, va bene così», disse il cappellone guardando fuori dal finestrino. «Ha fatto bene a prendere tassì, con tutti gli zingari che ci stanno qua attorno, sempre pronti a rubare ai poveri turisti». «Eh sì, meno male che ci siete voi tassisti. Per non parlare di tutta la corte dei miracoli che gira per le strade, qui tra marocchini, cinesi, albanesi, Sud America non se ne può più». Capisco, la sicurezza. Ma una volta non c'erano furti, droga e fatti di sangue? Io so solo che andiamo sempre peggio. Lo so io quello che mi tocca da vedere. Certo, quando c'era lui. Può dirlo forte, dottor. Sì, insomma, c'ha proprio ragione lei e ci vorrebbe un'altra volta per fargli vedere a fine che fanno i tossici, le zoccole, sti morti de fame che chiedono soldi a ogni angolo. Tutto al muro gli metterei, poi vedemo chi sgara ancora. Signore, non mi fraintenda, io contro le zoccole non c'ho niente. Anzi, se gli faccio pure un'amichetta qua vicino, che... Ci vorrà ancora molto? Al traffico, gli ho detto. Guardi il tassametro come corre, a quest'ora ci avevo già fatto vedere Colosseo lì fuori imperiali. An vedi, fosse pure frocio questo qui. Con quegli occhiali, poi. Quindi, se non ho capito male, lei risolverebbe i problemi di Roma con la decimazione, giusto? De Roma? Der mondo, altro che de Roma! Ma non me faccia parlare, la prego, che di sti tempi non ci avemo più manco il diritto di quello che pensamo. Parole sante, caro amico, ma adesso mi perdoni. Accosti qui, devo togliermi un peso. Sbirciando dallo specchietto, il tassista vide l'uomo tirare fuori un telefono cellulare. Non gli sembrava di conoscere quel modello. Stava per chiedergli di che marca fosse, quando la lingua gli si seccò in bocca. L'uomo era sparito. Ora una voce, fuori di lui, dentro di lui, una luce, un boato. Gli stava parlando. No, gli stava ordinando qualcosa. La ferrovia? Doveva assolutamente andare alla ferrovia. Era questione di vita o di morte. Scese dal taxi senza curarsi di chiudere la portiera. I binari correvano a fianco della carreggiata. C'era una recinzione, era troppo alta e non sarebbe mai riuscito a superarla. Aprì il bagagliaio, quelle tronchesi che gli erano servite per rubare la bici del vicino di casa marocchino. Dov'erano? Ah sì, presto, devo fare in fretta. Con rapidità e precisione il tassista si ricavò un varco nella rete, gettò a terra le tronchesi e corse sui binari. Non c'era nessun treno in arrivo. Si ricordò del vecchio trucco e appoggiò un orecchio sulle rotaie. lo tenne pigiato senza curarsi del lieve sfrigolio che proveniva dal lobo sudato. Presto sarebbe arrivato, proprio come gli aveva detto quella cosa, la potenza. Era in lui che tutto iniziava e tutto finiva. Che fortuna che avesse preso proprio il suo taxi. Ecco, una vibrazione. Un'altra. Adesso la sento anche con le dita. Si mise in piedi tra i due binari come un giocatore di rugby pronto a stoppare il primo avversario che avesse avuto l'ardire di sfidarlo. Il sorriso di chi sa di essere invincibile. Drago scese dall'auto. Intravedeva la sua meta poco lontano. Via Nicolò Carosio, quasi arrivato. Le sirene lontane di un'ambulanza si stavano avvicinando. Fate con calma, tanto ormai. E ora un paio di pedine per la prossima mossa, giusto per essere sicuri. Tastò il Devil in tasca e si diresse verso l'ingresso. Goddare chi? Cazzo, questo sì che mi piace. E come, come? Gli occhi di Mirko scintillavano di bramosia come quelli di un bambino davanti a una torta. Come l'altra volta. Ancora? Ancora. Dunque, hai detto che è abitudinario, vero? Cazzo, Mirko, quello è un crucco, è kantiano. Scommetto che va a cagare tutti i giorni alla stessa ora da quando è nato. Renditi conto, ci possiamo regolare gli orologi con le sue abitudini. Ore 7:30 cena, ore 8 TG. Ya?